te canta a stelle, parla nel buio, fa di un giorno un attimo quasi fosse unico. La notte rende fragile la povertà di ogni suo bagliore che viene e va. La sera mi consola per ciò che sarà. Abitua gli occhi e l'anima all'oscurità. Ore del mattino sento vicino, è una realtà immaginata. Impacciato rende ognuno colpevole del suo suicidio. Scorrere è un naturale cogliere la fine della luce.